là dove il sol nell'immenso del ciel, là ci sei tu, dolce amor, solo tu. Da sempre io lo so che lassù nell'immenso del ciel, là dolce amor, ci sei tu, tu, tu. Mi darai la mano e mi condurrai dove tu vorrai, angelo, io ti seguirò, ti accarezzerò e ti chiederò baciami là dove il sol nell'immenso del ciel, là dolce amor, ci sei tu, tu, tu. Condurrai dove tu vorrai, angelo, io ti seguirò, ti accarezzerò e ti chiederò baciami là dove il sol nell'immenso del ciel, là dolce amor, ci sei tu, tu, tu, solo tu, tu, tu.